Cari fratelli e sorelle, nella serie delle nostre catechesi su grande personalità della Chiesa antica, arriviamo oggi a un eccellente vescovo africano del III secolo, San Cipriano, che fu il primo vescovo che in Africa conseguì la corona del martirio. In pari grado la sua fama, come attesta il diacono Ponzio, che per primo ne scrisse la vita, è legata alla produzione letteraria e all'attività pastorale dei 13 anni che intercorrono fra la sua conversione e il martirio. Nato a Cartagine da ricca famiglia pagana, dopo una giovinezza dissipata, Cipriano si converte al cristianesimo all'età di 35 anni. Egli stesso racconta il suo itinerario spirituale. Quando ancora giacevo, come in una notte oscura, scrive alcuni mesi dopo il battesimo, mi appariva estremamente difficile e faticoso compiere quello che la misericordia di Dio mi proponeva. Ero legato dai moltissimi errori della mia vita passata e non credevo di potermene liberare, tanto assecondavo i vizi e favorivo i miei cattivi desideri. Ma poi, con l'aiuto dell'acqua rigeneratrice, fu lavata la mia miseria della mia vita precedente. Una luce sovrana si diffuse nel mio cuore, una seconda nascita mi restaurò in un essere interamente nuovo. In modo meraviglioso cominciò allora a dissiparsi ogni dubbio. Comprendevo chiaramente che era terreno quello che prima viveva in me, nella schiavitù dei vizi della carne, ed era invece divino e celeste ciò che lo Spirito Santo in me aveva ormai generato. Subito dopo la conversione, Cipriano, non senza invidie e resistenze, viene eletto all'ufficio sacerdotale e alla dignità di vescovo. Nel breve periodo del suo episcopato affronta le prime due persecuzioni sancite da un editto imperiale, quella di Decio nel 250 e quella di Valeriano 257 a 258. Dopo la persecuzione particolarmente crudele di Decio, il vescovo dovette impegnarsi strenuamente per riportare la disciplina nella comunità cristiana. Molti fedeli, infatti, avevano abiurato o comunque non avevano tenuto in contegno corretto dinanzi alla prova. Erano i cosiddetti lapsi, cioè i caduti, che desideravano ardentemente rientrare nella comunità. Il dibattito sulla loro riammissione giunse a dividere i cristiani di Cartagine in lassisti e rigoristi. A queste difficoltà occorre aggiungere una grave pestilenza che sconvolse l'Africa e pose interrogativi teologici angosciosi sia all'interno della comunità sia nei confronti con i pagani. Bisogna ricordare infine la controversia fra Cipriano e il vescovo di Roma, Stefano, circa la validità del battesimo amministrato ai pagani da cristiani eretici. In queste realmente difficili circostanze Cipriano rivelò elette doti di governo. Fu severo, ma non inflessibile con i lapsi, accordando loro la possibilità del perdono dopo una penitenza esemplare. Davanti a Roma, fu fermo nel difendere le sane tradizioni della Chiesa africana, fu umanissimo e pervaso dal più autentico spirito evangelico nell'esortare i cristiani all'aiuto fraterno dei pagani durante la pestilenza. Seppe tenere la giusta misura nel ricordare ai fedeli, troppo timorosi di perdere la vita e i beni terreni, che per loro la vera vita e i veri beni non sono quelli di questo mondo. Fu irremovibile nel combattere i costumi corrotti e peccati che devastavano la vita morale, soprattutto l'avarizia. Il diacono Ponzio racconta su questo punto così: passava così le sue giornate, quando ecco che, per ordine del proconsole, giunse improvvisamente alla sua villa il capo della polizia. In quel giorno il santo vescovo fu arrestato e dopo un breve interrogatorio affrontò coraggiosamente il martirio in mezzo al suo popolo. Cipriano compose numerosi trattati e lettere sempre legate al suo ministero pastorale. Poco incline alla speculazione teologica, scriveva soprattutto per l'edificazione della comunità e per il buon comportamento dei fedeli. Di fatto, la Chiesa è il tema che gli è di gran lunga più caro. Distingue tra Chiesa visibile gerarchica e Chiesa invisibile mistica, ma afferma con forza che la Chiesa è una sola, fondata su Pietro. Non si stanca di ripetere che chi abbandona la cattedra di Pietro, su cui è fondata la Chiesa, si illude di restare nella Chiesa. Cipriano sa bene, e lo ha formulato con parole forti, che fuori della Chiesa non c'è salvezza e che non può avere Dio come padre, che non ha la Chiesa come madre, così nel suo libro L'unità della Chiesa Cattolica, capitolo 4. Caratteristica irrinunciabile della Chiesa è l'unità, simboleggiata dalla tunica di Cristo senza cuciture, unità della quale dice che trova il suo fondamento in Pietro e la sua perfetta realizzazione nell'Eucaristia. Vi è un solo Dio, un solo Cristo, ammonisce, una sola è la sua Chiesa, una sola la fede, un solo popolo cristiano, stretto in salda unità dal cemento della concordia. E non si può separare ciò che è uno per natura. Abbiamo parlato sul suo pensiero riguardante la Chiesa, ma non si deve trascurare l'insegnamento di Cipriano sulla preghiera. Io amo particolarmente il suo libro sul Padre Nostro, che mi ha aiutato molto di capire meglio e di pregare meglio il Padre Nostro. Insegna come proprio nel Padre Nostro è donato al cristiano il retto modo di pregare. E sottolinea che il Padre Nostro è dato al plurale affinché colui che prega non preghi unicamente per sé. La nostra preghiera, scrive, è pubblica e comunitaria. E quando noi preghiamo, non preghiamo per uno solo, ma per tutto il popolo, perché con tutto il popolo noi siamo una cosa sola. Così preghiera personale e liturgica appaiono robustamente legate tra loro. La loro unità proviene dal fatto che esse rispondono alla medesima parola di Dio. Il cristiano, sottolinea, non dice Padre mio, ma Padre nostro, fin nel segreto della camera chiusa, perché sa che in ogni luogo, in ogni circostanza, egli è membro di uno stesso corpo. E scrive poi, preghiamo dunque, fratelli carissimi, come Dio il Maestro ci ha insegnato, è preghiera confidenziale e intima, pregare Dio con ciò che è suo, far salire alle sue orecchie la preghiera di Cristo, riconosca il Padre le parole del suo Figlio quando diciamo una preghiera. Colui che abita interiormente nell'animo sia presente anche nella voce. Quando si prega inoltre, si abbia un modo di parlare e di pregare che con disciplina mantenga calma e riservatezza. Pensiamo che siamo davanti allo sguardo di Dio. Bisogna essere graditi agli occhi divini sia con l'atteggiamento del corpo che col tono della voce. E quando ci riuniamo insieme con i fratelli e celebriamo i sacrifici divini con il sacerdote di Dio, dobbiamo ricordarci del timore reverenziale e della disciplina, non dare al vento qua e là le nostre preghiere con voci scomposte, né scagliare con tumultuosa verbosità una richiesta che verrà comandata a Dio con moderazione, perché Dio è ascoltatore non della voce ma del cuore. Parole che anche oggi sono valide e ci aiutano nel celebrare bene la Santa Liturgia. In definitiva, Cipriano si colloca alle origini di quella feconda tradizione teologico-spirituale che vede nel cuore il luogo privilegiato della preghiera. Stando alla Bibbia e ai padri, infatti, il cuore è l'intimo dell'uomo, il luogo dove abita Dio. In esso si compie quell'incontro nel quale Dio parla all'uomo e l'uomo ascolta Dio. Il tutto attraverso l'unica parola divina. Precisamente in questo senso, riecheggiando Cipriano Smaragdo, abate di San Michele alla Mosa nei primi anni del IX secolo, attesta che la preghiera è opera del cuore, non delle labbra, perché Dio guarda non alle parole, ma al cuore dell'orante. Cari amici, facciamo nostro questo cuore in ascolto, di cui ci parlano la Bibbia e i padri. Ne abbiamo tanto bisogno. Solo così potremo sperimentare in pienezza che Dio è il nostro Padre e che la Chiesa, la Santa Sposa di Cristo, è veramente la nostra Madre. Grazie per l'attenzione.